Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Guardò i capelli ben ravviati di Alexander, così vivi, e pensò con una certa pena che era tornata da Cambridge perché lo amava e voleva stare vicino a lui. Lo amava per una sua grazia segreta, una timidezza, che la induceva a pensare che se l'avesse notata avrebbero potuto condividere un'esistenza appartata, armoniosa, parca di parole. Sapeva pochissimo di lui e si era chiesta se fosse omosessuale. Di solito lo si sapeva se uno era omosessuale e comunque lo si percepiva fisicamente. Si chiese se Alexander pensasse mai a lei. Altri lo facevano. Se lui non lo faceva, qual era il motivo? Perché lui non la vedeva? Forse lo amava proprio perché non riusciva a dare una risposta a quelle domande. Anche Alexander si domandava perché non pensava a lei. Se lo domandava ogni volta che la vedeva, ma non approfondiva. Ogni volta che parlava con lei, come era accaduto di sfuggita a proposito del suo dramma, si riprometteva di farlo di nuovo, ma l'occasione non si ripresentava. Era adorata e rassicurante, comprensiva e sensibile. E forse erano le cose di cui aveva paura, poiché portavano ad altre cose di cui senza dubbio aveva paura. Però non era minacciosa, rifletté, come era Frederica, che a un tratto irruppe nel suo campo visivo. Era tutta concentrata su di lui, esplicitamente e senza un sorriso. Quella ragazza, pensò, avrebbero dovuto sculacciarla da bambina. Mentre Bill si alzava per parlare, se d'impulso o da programma non era dato sapere, pensò che l'avevano senz'altro sculacciata. Abbassò gli occhi davanti allo sguardo risoluto di Frederica. Era lì per un estremo atto di sfida passiva. Ciò che Bill davvero non voleva era che sprecasse se stessa insegnando al liceo femminile di Blessford. E invece era lì, nella casa di Bill, ad affermare la propria indipendenza rifiutando di andarsene, rifiutando di abitare le aspirazioni di Bill, prigione ben più temibile della sua casa. L'aveva seguita negli studi con estrema attenzione. Del resto, lei possedeva, per natura e impegno, le doti che lui desiderava in lei, ma poiché le aspirazioni erano di Bill e non sue, rifiutava di usarle. Si comportava secondo i principi e l'esempio del padre, un lavoro onesto in un posto dove le ricompense per un lavoro onesto erano scarse e difficili da ottenere. Lui ci impazziva. Per lei voleva o un incarico a Oxford, o la redazione letteraria di una rivista prestigiosa, o una cattedra in un'università di provincia. Se non fosse stato lui a pretenderlo, forse Stefani avrebbe fatto qualcosa di tutto ciò, ma non in quelle condizioni. Era dispiaciuta per Frederica, che reagiva in modo diverso alle sferzate di quei venti contrari, caldi e freddi, di immoralità e di ambizione. Fu ancora più dispiaciuta quando la signorina Wells passò all'elenco delle studentesse selezionate per partecipare alle audizioni per Astrea a Blessford Ride. Lo sguardo infuocato di Frederica divenne un pozzo di ansiosa disperazione. Mai aveva desiderato tanto qualcosa quanto essere inclusa in quell'elenco. Gli elenchi sono una forma di potere. Frederica trascorreva gran parte del suo tempo a scuola a studiare le forme dell'esercizio del potere. Controllo del passo, controllo del numero di ragazzi in una fila, controllo di calzini, mutande e calze, della misura e del colore dei quadretti nel percalle. Inclusione, esclusione, successo, insuccesso prendevano forma e sostanza in elenchi pubblici. Elenchi di premi di comportamento, note di condotta, squadre di tennis, gruppi di discussione, la lode al diploma, risultati nelle singole discipline e risultati complessivi. Frederica odiava gli elenchi e l'odio generava in lei un'energia selvaggia. Doveva essere lei la prima, in tutte le occasioni in cui decideva di non passare inosservata. Sapeva che gli insegnanti non avevano simpatia per lei, ma giustizia imponeva che il suo nome fosse sempre il primo in ogni classifica accademica, e ai compilatori di tali liste spettava il compito di rappresentare, compilandole, una giustizia astratta, incarnata e integra. Riteneva di dover essere la prima anche in tutte le liste delle attività teatrali, ma capiva che era più arduo costruirle in base a chiari principi di astratta rettitudine. Ciò di cui non si rendeva conto era di quanto fosse faticoso averla nel corso di recitazione o di dizione. Per un insegnante era impossibile distribuire le parti senza avvedersi della disperata concentrazione di Federica, mani, piedi, occhi, bocca, tesi per l'angoscia. Se le attribuivano un ruolo, leggeva con un brio singhiozzante che metteva a disagio le altre ragazze, convinte che la lettura in classe esigesse toni attenuati per una questione di buone maniere. Se il ruolo non le veniva attribuito, lanciava intorno sguardi fulminanti, si chiudeva in se stessa e mormorava dal banco, in quella che era una fin troppo trasparente controlettura corretta di ogni parola. Quell'ossessione aveva un lato curioso. Le parti che desiderava di più erano suggerite più dal sesso che dal numero di battute. Goneril piuttosto che Lear, Miranda piuttosto che Prospero. Interpretava le donne con voce trepida o vibrante d'emozione. Gli uomini, invece, sebbene in Shakespeare ve ne siano di più e più appassionati, risultavano paradossalmente meno inquietanti per il suo pubblico involontario. In quel momento la signorina Wells si alzò per leggere il cruciale elenco di circa 20 nominativi e Federica si contorse sulla sedia, in agonia, lanciando sguardi disperati in direzione di Alexander, che naturalmente fingeva di non vedere. Stephanie aveva impazientita sia con la signorina Wells che con Federica. C'era stato un tentativo deliberato di escludere Federica dalla lista con il pretesto, avanzato dalla signorina Wells, che era candidata a spiccare il volo verso la carriera accademica ed era meglio che non sottraesse troppo tempo ai suoi studi, e con il pretesto, avanzato dalla direttrice, che Federica si metteva fin troppo in mostra e si doveva dar modo di brillare anche ad altre ragazze. Stephanie sapeva che il nome di Federica era sulla lista, perché lei stessa aveva obiettato con insolita fermezza che sarebbe stato ingiusto escluderla. Quando venne pronunciato il suo nome, Federica tirò un lungo sospiro, rilassò le mani avvinghiate all'orlo della sedia e lanciò un'occhiata trionfante e possessiva ad Alexander, dimostrando di aver perso ogni interesse per la cerimonia come se il suo fosse l'unico nome della lista. Stephanie provò un attimo di rabbia pura, poi un colpevole timore. Cosa ci si poteva aspettare, infatti, dopo quel piccolo successo? Federica esultava di speranza sciocca e arrogante. Le ragazze si erano preparate dei pezzi per l'audizione, Perdita, Elena, la duchessa di Amalfi. Federica aveva provato a trovare davanti al suo specchio, incerciata tra Elena e la duchessa. Stephanie, udendo quell'eloquio torrenziale, si era offerta con coraggio di farle da pubblico e con coraggio anche maggiore aveva implorato Federica di essere un po' meno espressiva, di lasciare che i versi parlassero da sé. Federica l'aveva aggredita, urlandole che lei non aveva il diritto di parlare. Cosa ne sapeva lei che metteva a tacere se stessa e ogni altra cosa? Benjamin Lodge divise le ragazze in piccoli gruppi e senza preavviso disse loro di correre e ballare. Dovevano togliersi cappello e cappotto, attraversare il salone di corsa e saltare sul palcoscenico, formare dei cerchi, sgambettare, saltellare. Alexander andò al pianoforte e suonò Thomas Bull. Le ragazze si misero a correre e Lodge urlò «Più veloci!». Lunghe trecce rimbalzavano sui distintivi delle capoclasse, boccoli morbidi sfregavano guance arrossate. «Saltate adesso!» urlò Lodge ridendo. Lui e Crow prendevano appunti su appunti. «Saltate più in alto, allargando e tendendo le braccia!» Fisicamente, Federica non aveva grazia. Quando provava davanti allo specchio, sia che bisbigliasse, sia che singhiozzasse, le sue mani rimanevano comunque rigide lungo il tronco rigido. Non sapeva cosa farne. Per la supplica della duchessa di Amalfi al suo timido spasimante, aveva proteso una mano e si era sentita come il tamburino meccanico che lei e Stephanie possedevano da bambine. Ora ricadeva rigida come un pezzo di legno sull'assito di legno del palcoscenico e si rialzava furiosa, pesante, in mezzo alla selva di braccia distese e piedi leggiadri. Alexander, al piano, si muoveva come un'onda del mare, i muscoli della spalla guizzanti, dita e capelli fluenti. Il viso di Federica si rabbuiò per lo sforzo inutile e l'umiliazione. Scese dal palco non appena fu in grado di farlo decorosamente e sedette accigliata in disparte. Adesso che si erano scaldate, annunciò Lodge, avrebbe ascoltato i pezzi che avevano scelto. Quando arrivò il turno di Frederica, fu Crow a chiederle chi avrebbe interpretato, e sempre Crow a dire ad Alexander di leggere per lei le poche battute necessarie della parte di Antonio. La voce di Frederica tremò nel presentarsi. Alexander, in piedi di fronte a lei, fu insolitamente gentile. «Calma, Frederica, non ti agitare, non è la fine del mondo». «No?» rispose Frederica con uno scatto contenuto della sua vecchia passione per la contraddizione. «No», disse Alexander e sorrise. Era il primo sorriso di calore autentico che le avesse mai rivolto, pedagogico e premuroso. Ne fu irritata e incitata insieme. Alexander introdusse: «Non crediate che io sia tanto sciocco da non indovinare a che tendono i vostri favori. Sarebbe stolto colui che, avendo freddo, le mani cacciasse dentro il fuoco per scaldarle». E alla cieca, Frederica cominciò la dichiarazione di risposta. L'aveva immaginata graziosamente, seppur nobilmente esitante, ma la presenza di Alexander e la collera per il fiasco nel ballo vi aggiunsero qualcosa che non riuscì a controllare. Un tocco di aggressività impaziente, un tocco di esplicita volontà di ottenere ciò che desiderava, che l'aveva portata così lontano e l'aveva sostenuta. Non si mosse, ma poiché Alexander era Alexander, tremava nella sua rigidità. «Miseria di noi che siamo nate grandi, costrette a corteggiare poiché nessuno sa farlo lui!» Alla fine di quei versi fece un passo involontario verso di lui, sapendo di farlo nella maniera sbagliata, urlando troppo, chiedendogli aiuto, finché non si arrestò imbarazzata. «Grazie», disse Crow inespressivo quando ebbe finito, e lei, in un modo o nell'altro, scese. Alexander spinse indietro un ciuffo di capelli e si sciacquò a fondo con un fazzoletto candido. Ci fu una pausa e un andare e venire e confronto di appunti fra i tre uomini, e poi Crow annunciò che desideravano una prova ulteriore. 10 ragazze avrebbero dovuto leggere una poesia. Disse i nomi. Si trattava senza dubbio della lista semidefinitiva. Quello di Frederica non c'era. Per un istante non riuscì a crederci. Evidentemente l'avevano dimenticata. Le 10, tese e radiose, salirono di nuovo sul palcoscenico e Lodge si alzò pigramente dalla sua sedia e si avvicinò a una di loro, una ragazza alta e ben fatta, con i codini, una studentessa che si chiamava Antea Warburton. «Le sarebbe dispiaciuto, le chiese, se le scioglieva i capelli? E le altre potevano?» Lodge insinuò dita esperte nel lucido serpente di capelli chiari. La signorina Warburton, più svelta, disfece l'altro, con gli occhi modestamente abbassati. Lodge le dispose i capelli intorno al viso. Lei lo guardava, fredda e inquisitiva, attraverso quella nuvola, e Frederica comprese con amarezza che le ragazze selezionate avevano in comune una cosa. Erano tutte belle, molto belle. Frederica non era mai stata così crudamente di fronte ai propri limiti o alla grande varietà di doti che il mondo richiedeva. Ci sarebbero stati canti e balli sotto gli alberi dei giardini di Blessford Ride, e risa e versi, ma non per lei. Bene, non aveva intenzione di fare la spettatrice agli spettacoli altrui. Si sarebbe alzata e se ne sarebbe andata. Si alzò e se ne andò. Matthew Crow la raggiunse nel Pantheon. «Dove stai andando?» «A casa». «Perché?» «Non vedo perché dovrei restare». «Perché no?» «Non immaginavo», disse Frederica velenosa, «che fosse un concorso di bellezza». Ebbe una visione improvvisa e rassicurante di succinti costumi da bagno, tacchi a spillo e tracolle di satin su seni prosperosi. «Un dramma è uno spettacolo», disse Matthew Crow. «Già! Stiamo cercando soprattutto ninfe e grazie per un ballo in maschera al cospetto della regina. Non ti ci vedo nel gruppo». «Infatti, e non vedo perché non l'abbiate detto prima che era quello che stavate cercando». «Non solo, cerchiamo anche servitù, comparse». «Capisco. Beh, ora me ne torno a casa». «Io non me ne andrei. Sentendoti, mi è venuta un'idea divertente. In effetti il tuo provino era notevole. Com'è che hai pensato di fare una duchessa così aggressiva? Doveva esserlo per forza. Era sorella dei suoi perfidi fratelli. Era una grande principessa, era avida, addentava le albicocche, era indipendente. A dire la verità, volevo farla più supplichevole. Ero furiosa per via del ballo. Non so ballare, mi sono sentita un verme. Posso fare di meglio. Perciò, mentre recitavo, ho capito che era legittimo interpretarla come una donna che sta per essere sopraffatta. Poteva funzionare. Certo, molto acuta. Grazie. Beve quella lode come una pianta setata. Crow si appoggiò ai contorti serpenti di pietra della Gorgone e disse: «Lasciati guardare». Si orò con un dito il naso lungo e affilato di Frederica. «Credo che valga la pena di tornare indietro». «Perché?» «Beh, dobbiamo trovare anche i protagonisti, per cominciare a lavorare con gli attori almeno al primo atto». Questa era un'ostentazione dei giochi di potere perfino peggiore degli elenchi. Era il colpo di fortuna dell'alfiere. Si toccò i capelli fulvi e fissò il minuto impresario. Era come una favola perché quell'uomo amava architettare favole. Viveva in un mondo dove quel tipo di architettura era il modello dell'arte e la vita e il potere imitavano l'arte. «Oh», disse Frederica, «la ringrazio. Non ho mai desiderato tanto una cosa, mai. Oh, se solo potessi io sarei...» «Vada, non prometto nulla», rispose Crow e aggiunse: «Non è che hai discusso della duchessa con tuo padre?» «È tutta farina del mio sacco, glielo giuro». Lui rise. «Forza, torniamo di là». Lei lo seguì assai di buon grado. Ode a un'urna greca. Stefani era seduta in un'aula gelida. Stava spiegando l'ode a un'urna greca alle studentesse che non erano andate a Blessford Ride. Una buona lezione è un mistero e può assumere molteplici forme. Stefani ne aveva un'idea semplice e circoscritta. Per lei l'insegnamento consisteva nella contemplazione in di un oggetto, di un manufatto. Non era un incoraggiamento alla libera espressione, all'autoanalisi o a ciò che in seguito si sarebbero chiamate relazioni interpersonali. No, Stefani riteneva che una buona lezione sull'ode a un'urna greca fosse un'ottima occasione per evitare proprio quel tipo di attività. Non aveva mai avuto difficoltà a mantenere la disciplina, non alzava mai la voce. Esigeva la quiete biologica e morale. Le ragazze entravano in classe vociando, urtandosi e ridendo. Barbara, Gillian, Zelda, Valerie, Susan, Juliet, Grace. Valerie aveva un'acne deturpante e Barbara mestruazioni molto dolorose. Il padre di Zelda stava morendo, questione forse di un mese, e Juliet era rimasta traumatizzata da un giovane squilibrato che le aveva cacciato una mano sotto la gonna e serrato la gola con un braccio in un vicolo di Blessford. Gillian era molto intelligente e aveva bisogno di una chiave di lettura, tecniche mnemoniche e uno schema analitico dell'urna greca per gli esami. Susan era innamorata di Stefani, che cercava di compiacere mostrandosi attentissima. Grace aveva un unico desiderio: possedere un negozio di fiori. Restava da scuola per il puntiglio e l'ambizione dei genitori, sprecando il suo tempo. Stefani preferiva ignorare tutte quelle informazioni e pretendeva altrettanto dalle sue allieve. Imponeva loro la calma, conservando lei stessa una calma eccezionale, come gli incantatori d'uccelli e i domatori di leoni che, lo aveva letto da bambina, rimangono immobili così che le creature vengono ipnotizzate o affrancate dalla paura, o entrambe le cose non ricordava bene. Lesse la poesia con calma, il più possibile senza espressione, una cantilena uniforme, poi la rilesse. L'ideale era accostarvisi con mente dilatata e vuota, come se fosse la prima volta. Tutte dovevano ascoltare le parole nello stesso modo, niente sottolineature o lacrime o manipolazioni. Chiese loro neutra: «Allora?» Prolungando quel momento critico in cui dovevano solo guardare, trovando difficile parlare e inevitabile un giudizio. «Allora», disse alle ragazze. Allora, che cosa vedete? Cominciarono a parlare di quando Keats chiede al lettore di vedere un'urna o un paesaggio, dei colori che evoca e di quelli che lascia scegliere al lettore, e da lì passarono alla natura della difficoltà di cogliere quanto viene creato per essere visto solo dalla lingua. Uomini e vergini di marmo, la giovenca e l'altare, solitario dolore e amara febbre, una fredda pastorale. Dolci le udite melodie, ma più dolci quelle non udite, disse Stefani. Gli oggetti si muovevano nell'aula, tra le pareti di otto menti, un'urna, otto urne, nove urne, semi realizzate, irreali, forme bianche i cui visi e membra si potevano percepire ma non descrivere nei dettagli, il biancore accecante, il buio, le parole in movimento, solitarie, a gruppi, a grappoli, dentro e fuori le cellule che contenevano i loro ricordi visivi, auditivi e intellettuali, individuali e collettivi. Gli esseri umani, aveva sempre pensato Stefani, anche quando era ancora una bambina, avrebbero potuto facilmente evitare anche solo l'idea di creare forme verbali immaginarie, avrebbero potuto limitarsi a vivere, a sognare, a tentare di dire la verità. Suonò la campanella. Le ragazze uscirono sbattendo le palpebre come gufi nella fulgida luce del giorno. Stefani cercò di andarsene in fretta da scuola. Voleva pensare. Attraversò la sala dei professori pensando all'insegnamento. Si poteva dire «io insegno» e sentire odore di inchiostro e di lisoformio. Si poteva dire «io insegno» e sentire le melodie di mie dita, vedere le forme bianche rincorrersi sotto fronde scure. La signorina Wells, rientrata da Blessford, si alzò in piedi e le porse un mazzolino di fiori di campo. Ne aveva uno identico appuntato sul cardigan viola fatto ai ferri. Stefani immerse il naso nel miele vino pallido dei fiori e li fissò alla giacca che subito infilò, un adornarsi riconoscente e preludio al congedo. «Bellissimi», disse. «Devo scappare. Come sono andate le audizioni?» Non voleva essere trattenuta per sentirselo raccontare. «Le ha fatte ballare e ha sciolto loro i capelli. Non Federica, immagino. Non è granché come ballerina. Hanno apprezzato la mia dolce Mary. C'erano uno o due seducenti per dita. Quanto a Federica, ha recitato in un modo molto aggressivo. E temo che cercassero solo ninfe e damigelle, ma l'hanno trattenuta. Quando sono venuta via, era di nuovo sul palco e stava recitando una poesia scritta da Elisabetta stessa. Ridevano e discutevano. Un cucciolo di leone al guinzaglio, stava dicendo il signor Crow. Federica era furibonda. Santo cielo! Stefani ne aveva abbastanza. Devo proprio andare, sono in bicicletta. Molte grazie per i fiori. Fai sempre dei mazzolini stupendi. Susan Spirata si accennava di trattare i madietti aspettando che la signorina Potter si dirigesse verso la rimessa delle bici. Aveva preparato una domanda molto intelligente sull'ode a un'urna greca che a suo parere richiedeva una risposta dettagliata. Appena la signorina Potter fosse salita in bicicletta, lei sarebbe corsa fuori e con fare del tutto naturale avrebbe inforcato la sua e l'avrebbe raggiunta all'altezza del cratere. Avrebbero pedalato fianco a fianco per 10 o 15 minuti, conversando loro due sole, come non era mai accaduto. Il cratere era un avvallamento abbandonato che costeggiava i campi da tennis e il viale d'accesso alla scuola. L'unico ordigno sganciato su Blessford, e solo in parte esploso, aveva sollevato il terreno praticamente senza danni, tranne qualche finestra rotta, e lasciato quella conca circolare infestata di gramigna ed epilobio, e non era mai stata risanata. Era una sorta di monumento alla guerra, e le ragazzine ne facevano lo scenario di drammi immaginari. Susan schizzò verso la rimessa ed estrasse la bici dal solco di cemento. La signorina Potter le sfrecciò davanti pedalando vigorosamente, un'onda verde oro. Susan montò in sella, si sissò sui pedali, oscillò brevemente e poi via. Stefani scendeva lungo il sentiero frenando tra buche e dossi. Dal versante opposto del cratere sopraggiunse un'imponente figura nera, manovrando con impaccio un'enorme bicicletta nera. Come se, pensò Susan, frenando anche lei, fosse sbucato dagli alberi di alloro fuligginosi sull'opposto versante del cratere. Ed era proprio così. Piombò addosso alla signorina Potter e finirono in un solco mentre i manubri cozzavano come animali che si battono a colpi di corna. Maldestro, pensò Susan, ma in realtà le cose stavano diversamente. Stephanie, colta alla sprovvista, avanzò ancora un po', batté dolorosamente il polpaccio contro l'orlo del pedale e si fermò a strofinarlo. Susan notò una lunga striscia di grasso sulla calza velata. Si chiese se fosse meglio proseguire, tornare indietro o restare lì a guardare. Daniel, a testa bassa, brancicava con ferocia manubri e freni incastrati. Pensava di metterci 10 minuti, con un po' di fortuna, non di più. Aveva progettato l'incontro con la sua consueta pignoleria, calcolando di incrociarla grosso modo in quel punto a quell'ora. Meglio lì che un incontro in apparenza fortuito a Blessford. Ma adesso non riusciva a spiccicar parola, e così raschiava gomma e metallo. Mentre lottava con la stoffa verde, il grasso, la catena, Stephanie lo osservava. Peli neri dappertutto, impermeabile nero, pantaloni neri, scarpe nere. Spalle e ventre enormi, colletto sacerdotale, mollette fissa pantaloni. Immenso era. Non disse nulla. Lui riuscì a liberare la bicicletta di forza e sbottò. La stavo aspettando. Lo vedo. Ho bisogno di parlare con lei. Lei si strofinava la gamba. Lui non ci badò. Oggi sono di fretta, magari un'altra volta. È importante. Qualcosa non va? Aggrottò la bella fronte serena. No, no, solo che io mi... Ho bisogno di parlare con lei. Lo ripeté con una certa irritazione, come se lei già dovesse saperlo. È importante. Non riusciva a trovare altre parole. Aveva desiderato talmente poco in vita sua. Quello che aveva voluto ce l'aveva. Se fosse riuscito a trattenerla anche solo per 10 minuti, era sicuro che si sarebbe resa conto dell'urgenza. Sapeva già, senza bisogno di ragionarci, che Stephanie aveva difficoltà a dire di meno. Mi conceda qualche minuto, disse. Oh, qualche minuto. Come se le stesse chiedendo ore. Qualche minuto? Credo di sì. Le va una tazza di caffè nella nuova caffetteria? È qui vicino. Non era il posto che avrebbe scelto lui, ma accettò. Sì, va benissimo. Mi dispiace di averle rigato la vernice. No, non importa, non era così nuova. Mi preoccupa di più la catena. Adesso è meglio andare. Dalla sua posizione, la ragazzina letterata li vide incamminarsi con passo incerto tra i cespugli scuri. Le enormi spalle nere e le gambe pesanti come pistoni le tolsero la vista del verde oro catturato. Fremeva di rabbia e delusione, come se fosse calata la notte. Risentita, pensò, al diavolo, è solo il liceo di Blessford e una cotta per una professoressa, è solo il cratere di una bomba e io sono solo una ragazzina. Come se sapesse che un giorno in futuro avrebbe reso più reale, più duraturo un altro prato e altre persone. Come se altri colori sconosciuti promettessero di essere più luminosi di quell'evanescente onda verde e oro. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.